la parola adesso alla professoressa Carla Di Pasquale dell'Università di Bologna, che interverrà appunto portando il suo contributo con una relazione sul tema «La recezione della filosofia kantiana della religione nei primi 50 anni del Novecento in Italia». La parola alla professoressa. Grazie. Scusami. La consistente ripresa degli studi sulla filosofia della religione di Kant, che ha caratterizzato i decenni a noi più vicini, rappresenta una implicita testimonianza della necessità avvertita da più parti di tornare a riflettere su questo tema. Un tema che fino allora era stato relativamente poco frequentato, ma soprattutto un tema che non emergeva nitido nei suoi contorni, non risultava enucleato con la necessaria precisione dal contesto più ampio, troppo ampio verrebbe voglia qualche volta di dire, nel quale il maggior numero degli studiosi lo aveva inserito. Il riferimento è proprio agli ultimi decenni in cui si è ravvivato l'interesse per la filosofia della religione in confronto con il periodo precedente, in cui questo interesse c'era, ma probabilmente era difficile coglierlo perché probabilmente annacquato in mezzo a una quantità di altre suggestioni. È vero che l'indagine su una problematica di tipo filosofico-religioso aveva indirettamente ricevuto un impulso dal concorso di fattori diversi, i quali erano emersi fra la seconda metà dell'Ottocento e il primo Novecento. Fra questi elementi basta ricordare rapidissimamente, da un lato, la cosiddetta reazione antipositivistica e dall'altro l'ampliamento di orizzonte rispetto a una direzione di ricerca che fino a quel punto era stata prioritariamente orientata sul versante gnosiologico. Ecco, quindi tutto questo facilita, aiuta il ritorno di interesse per una filosofia della religione, ma non solo aiuta. D'altro verso, infatti, proprio perché i primi decenni del nuovo secolo possono essere, del Novecento, possono essere qualificati come il periodo della riscoperta della metafisica in Kant, lo studio della filosofia religiosa o della filosofia della religione, come si preferisca dire, in Kant appunto, veniva spesso a perdere la propria autonomia, già che inevitabilmente incrociava in più punti un genere di investigazione più larga, volta a riflettere sulla qualità, sul ruolo, sulle dimensioni della dottrina metafisica. Ecco, il difficile di questo tipo di ricerca, per conto mio, soprattutto se lo si taglia come poi ho cercato di tagliarlo, sta nell'individuare, nel distinguere una riflessione più direttamente legata alla filosofia religiosa o con particolare riferimento allo scritto sulla religione, dalla dottrina metafisica in senso lato. Evidentemente questo non significa che il problema della metafisica stia in modo esclusivo al centro degli studi kantiani condotti nel primo Novecento. Certo che ci sono altre direzioni di ricerca, ma di queste io volutamente non mi sono occupata, e invece quello che tendo a sottolineare è che quando questo problema della metafisica si pone, l'intreccio con la problematica che qui ci interessa diventa difficilmente viene meno. Dove dunque non si limiti il nostro interesse, come credo non si possa limitare, alla sola ricezione della religione, dello scritto sulla religione nei limiti della semplice ragione, fra l'altro un'opera che nel periodo del quale io mi occupo non rientra nel novero di quelle che hanno ricevuto la maggiore attenzione, ogni ampliamento del campo di indagine finirà per sovrapporsi con l'indagine su altre tematiche, per cui di volta in volta ci troveremo impegnati con la questione della funzione della dialettica trascendentale o della dottrina delle idee nella prima critica, con la questione dei postulati nella seconda critica, per non parlare delle molteplici connessioni fra il tema religione e la concezione della finalità nel Kant maturo o tardo. e la riflessione sulla consistenza e sul ruolo della problematica religiosa nella filosofia critica verrà ad incrociarsi quasi regolarmente con la riflessione su tali più ampie tematiche. Naturalmente ricordo ancora, per evitare obiezioni possibili, che io sto trattando della storiografia della prima metà del Novecento. Ai nostri giorni la filosofia della religione, anche come materia, ha un suo campo disciplinare assai più individuato, evidentemente. Dicevo che sarebbe restrittivo limitare il nostro sguardo all'opera kantiana sulla religione, ma certamente è da qui che bisogna prendere le mosse. E allora io qui cerco di dare un attimo di rapidità alla mia esposizione, e poco più che, no, non potrò far molto di più che non enumerare i testi centrali sui quali poi questo studio si articolerà. Quindi io in un primo momento prendo in considerazione i testi che esplicitamente si occupano della religione, del Religionsschrift. E allora il primo che occorre segnalare è il volume commemorativo pubblicato a cura di Padre Gemelli per il secondo centenario della nascita di Kant, appunto intitolato Immanuel Kant, è del 24. E in particolare all'interno di questa serie di contributi il contributo di Umberto Padovani, che è dedicato proprio al nostro argomento. Il contributo si intitola La religione nei limiti della ragione. Naturalmente sempre rischioso dare giudizi senza poterli argomentare, ma insomma io tento di sintetizzare quello che da questo testo si può ricavare. A me pare che la lettura di questo saggio non susciti particolari entusiasmi, né che presenti un'interpretazione particolarmente efficace o incisiva. Probabilmente l'autore paga un tributo alla relativa novità del tema, come dimostra l'ampio ricorso a fonti autorevoli, innanzitutto l'indagine che della filosofia pratica aveva offerto Delbo ha una diffusione che comincia fin dagli inizi del Novecento e prosegue quasi fino a oggi, direi. E qui vengono riportati in larghi brani commenti di Delbo a passi dello scritto kantiano, e poi lo studio di Cecilia Dentice di Accadia, Il razionalismo religioso di Immanuel Kant, che in Italia ebbe anch'esso subito una vasta eco. A sua volta Padovani dichiarava di aderire a una interpretazione idealistica proprio sulla scia di quella proposta di Accadia. Io qui adesso però ve lo risparmio, ho tutta una citazione che dice, sarebbe abbastanza divertente da leggere, ma si leggerà poi quando verrà scritto. Kant interpretato realisticamente funziona così. Kant interpretato idealisticamente funziona così, non c'è problema, comunque lo interpretiamo, la religione è l'acme della sua opera. Quindi io preferisco utilizzare il percorso idealistico, però aggiunge, fuori di scherzo, aggiunge Padovani, perché questa lettura a lui pare quella più compatibile con le premesse della dottrina kantiana stessa. Corre l'obbligo almeno aggiungere, visto che prima ho parlato di interesse di volta in volta rivolto alle singole opere kantiane, corre l'obbligo di aggiungere che il fulcro dell'indagine di Padovani è la critica della ragion pratica. Quanto alla dottrina del male radicale, ricordo solo questo perché insomma ne abbiamo parlato molto a lungo, essa veniva ritenuta in aperto contrasto con il sistema kantiano. Mi fermo quanto a questo argomento. Ci sono molti altri articoli, alcuni altri articoli che verranno nel corso della ricerca menzionati di questo volume, anche se non portano il titolo specifico, ma invece si occupano in generale della filosofia religiosa di Kant, articoli dei quali qui non farò menzione, salvo il saggio introduttivo di Padre Gemelli, intitolato Il nostro punto di vista vista nello studio della filosofia di Immanuel Kant, che rappresenta, mi pare, un sapiente intervento moderatore delle tesi più radicali esposti da altri autori nel medesimo volume. E questo mi pare di poterlo dire nella misura in cui padre Gemelli rifiutava di aderire alla tesi di una contrapposizione netta fra filosofia antica e filosofia moderna, e ben sappiamo che cosa significava aderire ad una contrapposizione di questo genere, e nel volume ci sono voci invece pro questa contrapposizione. Negava che la filosofia di Kant consistesse in un mero soggettivismo, e invece uno dei contributi di Mario Casotti era proprio dedicato al soggettivismo kantiano, anche se non era questo il titolo, e infine esprimeva l'idea che Kant avesse inteso dar vita ad una metafisica dell'essere. Passo rapidamente ad un altro testo che a me pare molto significativo degli anni 34-35, in realtà sono due articoli di rivista che poi compaiono riprodotti, ma io non so se anche allargati, perché fino a oggi, di ciò mi scuso, non sono riuscita a vedere il volume. Mi riferisco a Luigi Pellù, che ha scritto due articoli intitolati Il problema del male nella dottrina di Kant, cioè in realtà un articolo in due parti, in due numeri successivi della rivista di filosofia neoscolastica del 34 e del 35. Compare nelle bibliografie un volume 35 Milano con lo stesso titolo, immagino che sia o la riproposizione o un ampliamento di questi due articoli. Questo Pellù dà l'impressione, cioè non dà l'impressione, è un testo assai più consistente da un punto di vista teorico. Sullo sfondo del suo ragionamento sta la convinzione che la dottrina del male si inquadri nel complesso del sistema kantiano e sia legata con particolare connessione alla dottrina etica di Kant, quindi c'è un rovesciamento rispetto alla tesi precedentemente esposta. E soprattutto vi ho letto un argomento al quale io tengo molto, sarà un po' fichtiano secondo quello che si diceva stamani, ma insomma un argomento che io trovo molto stimolante e che qui ripropongo, cioè l'osservazione che non avevo avuto occasione peraltro di leggere altrove, per cui il problema del male, più che un problema o non è soltanto un problema di natura religiosa, anzi per la verità Pellù dice più che un problema di natura religiosa, costituisce un nodo importante, Pellù dice, il fulcro della concezione morale di Kant, inserito appunto nell'opera sulla religione. A fondamento della lettura di Pellù stava una forte insistenza sulla concezione dualistica che caratterizza la filosofia kantiana e che non consente a Kant, in particolare per il peso ivi esercitato dalla sensibilità, di lasciar coesistere, essendo esse grandezze reciprocamente contraddittorie, quelle che d'altra parte sono due temi centrali della filosofia critica e due temi particolarmente rilevanti per la dottrina del male, cioè da una parte l'universalità del male, ciò che solo giustifica la sua radicalità, e dall'altra la libertà dell'uomo. Ecco, la tesi di Pellù è che queste due grandezze non siano reciprocamente conciliabili. Naturalmente questo viene ampiamente argomentato e vi prego di credermi quasi sulla parola. L'altra tappa che dobbiamo ricordare è l'importante saggio introduttivo di Alfredo Pongi, curatore di una delle edizioni italiane della Religione. Non era la prima edizione, fra quella di Poggi e quella di Olivetti ne compariranno ancora uno o due, però il testo di Poggi, direi, per motivi di brevità, è quello che va in questa sede preso in considerazione, anche perché è un contributo molto ampio, oltre che di una certa consistenza. Le conclusioni più significative alle quali Alfredo Poggi giunge nella sua introduzione all'edizione italiana della Religionsschrift sono quelle per, sono sostanzialmente la affermazione dell'intimo valore cristiano della intimo valore cristiano è una citazione d'appoggi della concezione religiosa di Kant, ed inoltre questa concezione non è in contrasto con la parte vivente del cattolicesimo. Le due frasi, i due punti che ho riportato, intimo valore cristiano ed inoltre non in contrasto con la parte vivente del cattolicesimo, stanno vicine anche nel testo, non le ho estrapolate e ricucite, e anche questo, non c'è bisogno che mi soffermi sulla significatività di questo passaggio. Naturalmente, nell'architettura di uno scritto a questo punto c'è una nota dove si dice: vedi invece volume curato nel 24 a cura dell'Università Cattolica, dove si parlava della assoluta inconciliabilità del cattolicesimo con la dottrina kantiana. D'altra parte però, e poi questo si affretta a specificarlo, l'invito da parte di Poggi è quello di non costringere il pensiero religioso kantiano entro una confessione. Ciò avrebbe comportato, lo dico con parole mie ma parafrasano molto da vicino il testo, avrebbe comportato un vulnus inferto all'intendimento stesso di Kant. Dunque, per arrivare a queste conclusioni, l'autore affrontava il tema partendo dal suo nucleo concettuale, cioè dal significato di religione, anzi da quella che chiama il suo seme, cioè la relegatio con il trascendente. Come in Agostino, come in Pascal, il Dio, per quanto inenarrabile, è vivo in noi. E a tale esito si giunge tenendo distinte, come l'autore faceva, e sapendo attribuire, potremmo dire, a ciascuno il suo, conoscenza intellettiva e comprensione razionale, senza d'altra parte negligere il forte nesso che le lega. L'intelletto prepara con la sua attività ordinatrice la superiore visione razionale. Per parte sua la ragione, facoltà integrale dello spirito, sono parole di Poggi, ci dà una fede che è la fonte dell'unica possibile prova dell'esistenza di Dio, la prova morale. L'autore metteva in guardia dal separare i due mondi più di quanto non avesse fatto Kant stesso, e concludeva notando come l'uomo libero, quando è libero, è insieme legislatore e suddito di se stesso, e insieme ragione legislatrice e fenomeno di se stesso. E poi segue, però temo di dover tagliare, una parte che a me pareva interessante, cioè una risposta, qui non ci sono note, non ci sono riferimenti a Pellù, però è una risposta, sarà perché questi testi sono nel mio ordine, ordinati uno dietro l'altro, ma sembra proprio una risposta diretta a questa ricerca appena menzionata di Pellù. Costui aveva il problema della incommensurabilità, cioè della inconciliabilità fra, o della impossibile coesistenza fra mare radicale e libertà, o universalità, per meglio dire, del mare e libertà, e Poggi fa, argomentando abbastanza a lungo, arriva alla conclusione, prende posizione su questo argomento e arriva alla conclusione che qui si tratta che non è esatto parlare di una volontà intellegibile, non menica, la quale si pensi impeccabile soltanto perché crea la legge morale. Se si parla di legge morale, l'elemento della finitezza, detto in poche parole, deve essere presente, perché altrimenti saremo in presenza della beatitudine, di una volontà santa, e siccome l'uomo non è santo, e così via. E questo era un po' il succo della argomentazione di Poggi, e qui occorrerebbe, qui si apre tutto un altro versante relativo sia all'influenza, alla presenza di Heidegger in Italia o meno, sia al di là di questo riferimento a Heidegger, comunque a quelle posizioni italiane, prima fra tutte chiodi, ma se ne potrebbero ovviamente menzionare altre che hanno particolarmente insistito su questo dato della finitezza. Ne abbiamo parlato, non mi soffermo. Salvo ricordare che poi per Poggi c'era tutto un altro versante, se vogliamo dire politico-sociale, molto rilevante, e quindi una forte sottolineatura dell'idea di libertà come ciò che è volto contro il potere dell'autorità, tutto un discorso fatto in direzione della separazione dei ruoli della Chiesa e dello Stato. Fra l'altro c'è la seconda edizione, molto interessante, con riferimenti sia all'Oasie, al problema del modernismo, sia più da vicino al Concilio Vaticano II, e insomma tutta un ragionamento orchestrato in questo senso. Forse questa frase si può citare: con la nozione di sommo bene la persona, sottolineato, si persuade del ritorno alla giustizia. Ecco, questa era un po' l'impostazione che dava Poggi, per concludere che questa è la vera, la sola metafisica a cui Kant poteva giungere. Salto ancora delle cose, anche se c'è una parte sulla felicità interpretata come finale salvezza di chi l'ha meritato, che sarebbe interessata forse a Mori e anche, insomma, avrebbe potuto riaprire il discorso che abbiamo fatto ieri. Comunque concludo su questo punto, non potendo non ricordare un attacco abbastanza convinto Poggi muove nei confronti sia della D'Accadia sia nei confronti di Padovani. Parla di una miope critica e dice, insomma, non la ricchezza dei temi trattati non può essere negletta, così a non insistendo invece sull'astrattezza di Kant, e soprattutto sottolineando come l'ansia religiosa di Kant non può essere negletta, neppure quella ansia religiosa che verrebbe fuori in particolare in questa opera, un aspro libro dolomitico, naturalmente cito, tormentato come una roccia. E questo è Poggi. Spesso citato da Poggi, fra l'altro con una buona quantità di adesione, salvo però un aspetto, cioè una differenza di non poco rilievo, e cioè il differente peso attribuito alla rivelazione come fondamento della religione positiva. Di questo Poggi non aveva parlato, anzi, e invece appunto dicevo, questo tema è presente in Renato Lazzarini, dalla religione naturale precantiana alla religione morale di Kant. Da ora in poi posso anche permettermi di citare solo quasi titoli, nel senso che fin qui qui ho praticamente finito di citare opere che si sono direttamente occupate della religione. Da ora in poi, anche questo di Lazzarini sta un po' sul limite, da ora in poi i testi sono più di carattere generale, diciamo così. Il fulcro della interpretazione di Lazzarini ruota tutto intorno all'accentuazione della religione kantiana come religione morale. Niente di nuovo, si dirà in una tale lettura, generalmente condivisa, soprattutto a quel tempo, dai più diversi orientamenti della critica. E invece la novità c'è e consiste nella differenziazione tanto netta da diventare una vera e propria cesura fra religione morale e religione naturale. La natura che Kant ha in mente appellandosi alla religione naturale, ovvero razionale, non è, insiste Lazzarini, la natura della fisica sperimentale, non è neanche la natura come possibile oggetto della metafisica, ma è la natura umana. È evidente che poi queste considerazioni allora erano più coinvolgenti di quanto non siano oggi, perché risentivano molto di più anche del dibattito e del identificare fra religione naturale e razionale, temi che noi magari oggi sentiamo un po' meno. Il risultato al quale l'autore tende è quello di mostrare come la religione sia una conseguenza non accidentale, cito, ma necessaria della vita morale. E d'altra parte l'insistenza sulla qualità morale, sottolineo, e non invece naturale, della religione kantiana diventa lo strumento idoneo per asserire un ruolo ben più consistente di quanto in genere non si ritenga, svolto nel pensiero di Kant dalla religione positiva. E questo era il passaggio, cioè l'istituire una cesura fra religione naturale e religione morale consentiva poi il passo successivo alla religione positiva. Per meglio dire, l'insistenza su questo punto diventa uno strumento per asserire la possibilità di orientare una riflessione filosofica che si muova lungo le direttrici indicate da Kant in una direzione che approdi a questo esito e che permette di correggere la portata di un rischio. Ecco, questo è il punto sul quale Poggi non avrebbe mai potuto, al quale Poggi non avrebbe mai potuto aderire, permette di correggere la portata di un rischio invece sempre presente nella dottrina di Kant, cioè il rischio di una religione moralistica invece che morale, in parallelo a quella religione naturale che spesso era stata dal Rinascimento in poi mero naturalismo invece che autentica religione naturale, e questo rischio è insito in una concezione che ammette il soprannaturale nella vita morale, come certo Kant fa, ma voglia espungersi, cito, il soprannaturale tipicamente religioso. Quindi, cesura fra i due tipi di religione, Kant prova una religione morale, attenti però perché spesso la sua è invece solo una religione moralistica. Ho finito su quest'autore, salvo però ricordare, questa volta per fare un discorso vecchio come il mondo, cioè per condannare la nostra esterofilia, perché Lazzarini è autore, oltre che del saggio appena ricordato, di un saggio intitolato Il male nel pensiero moderno, le due vie della liberazione, Napoli, Perrella, 1936. Io non sono una gran lettrice, ma non mi era mai capitato di trovarlo citato. Possiamo forse dire che è un testo poco citato. Allora, siccome quando si studia il male si vanno a cercare i testi coevi o anche magari successivi, tedeschi, inglesi, e non si riescono spesso a reperirli per problemi così, ecco, insomma, questo testo che ha due capitoli, fra l'altro dedicato a Kant, ma che parte dal Medioevo, dall'ultimo Medioevo e arriva fino alla filosofia contemporanea, questo testo c'è ed è accessibile. In questo testo, appunto, un po' confermando anche l'esposizione che ho fatto fin qui, la dottrina di Kant viene contrassegnata come uno spiritualismo critico, e qui comincia ad aprirsi la strada verso tutto un discorso che dovrebbe cominciare, ma che mi pare di capire sia invece quasi da interrompere. No, dico ancora qualche cosa. Vado avanti ancora un po'. Presidente, 10 minuti. Grazie. Un'altra cosa allora interessante di questo Lazzarini è che, come nella D'Accadia c'era uno schizzo di storia della filosofia, e soprattutto uno schizzo di storia della filosofia tagliato sulla base del raffronto Kant-deismo, affiancato a una valutazione negativa del deismo stesso, allo stesso modo in questo testo di Lazzarini c'è una panoramica sulla religione naturale precedente a Kant, al termine della quale Poggi insiste, Lazzarini insiste sull'assoluto rinnovamento da parte di Kant nei confronti del deismo dei fondamenti della ragione morale. Qui naturalmente l'accento va posto sull'assoluto rinnovamento da l'autrice vede scaturire la religione kantiana sostanzialmente dalla critica della ragione pratica, pone in evidenza, ecco, questo direi è il punto che mi serve per ora e per poi, per ora e per sempre, cioè pone in evidenza la felice scoperta, così lei la chiama, compiuta da Kant della sintesi a priori, e e critica con forza la nozione di cosa in sé. Adesso, se noi dovessimo disegnare una mappa degli autori che hanno letto Kant, non tanto di quelli che ho citato, ma di quelli che citerò e dovrei citare, cioè da Martinetti a Carabellese a Barrier a Renda e a quanti altri, ecco, se noi dovessimo citare una mappa, e questa volta fare un discorso non cronologico perché non avrebbe senso, ma un discorso per linee interpretative forse, ecco, e una delle linee di demarcazione, delle strade per costruire questa mappa potrebbe essere costituito dalla posizione presa da ciascuno nei confronti della sintesi a priori e invece nei confronti della cosa in sé. Ecco, là dove si dice Kant ha fatto la felice scoperta della sintesi a priori, poi purtroppo però ha anche parlato di cosa in sé, si vuol dire, e là dove si dice per fortuna che c'è la cosa in sé e magari non si parla di sintesi a priori, si vuol dire quasi il contrario. Questo per schematizzare quella che credo anche nella relazione, nella stesura definitiva di questa relazione sarà un po' uno dei binari, delle strade da seguire. Ecco, quindi dicevo, per la Arcadia c'è questa felice scoperta compiuta da Kant della sintesi a priori, questa forte critica, questa serrata critica nei confronti della nozione di cosa in sé, il tutto nel quadro di una polemica condotta nei confronti della nozione di religione razionale, giusto appunto. Religione razionale è una sorta di simbolo, di sintesi della concezione illuministica, razionalistica, astratta e antistorica di Kant, che lascia avvertire tutto il suo peso negativo proprio nella religione. Se c'è un testo che alla Dacaglia non piace, è proprio la religione. Ci sarebbe naturalmente molto di più da dire, ma diciamo che sempre la Dacadia, questa religione finalmente entra nel cuore della filosofia con Kant, ma vi entra ridotta entro i limiti della semplice ragione. Questo ridotta è proprio forte, esprime proprio molto, e perciò infatti aggiunge privata di troppi elementi essenziali. E questa privazione è così grave, così piena di conseguenze, sto citando, che la religione kantiana, nata dalla seconda critica come fede nel valore assoluto e nella creatività illimitata dello spirito, vedi sintesi a priori, nel mondo morale, si viene nella religione entro i limiti restringendo fino a divenire un vuoto e arido simbolismo morale che rinnova l'astrattismo, lo scarso senso religioso, lo scarsissimo senso storico proprio del deismo. E direi che con questo possiamo considerare concluso il capitolo d'Accadia, salvo ricordare che un suo precedente volume su Schleiermacher fornisce interessanti indicazioni sulla Weltanschauung di questa autrice, cioè dalla lettura che fa di Kant, dalla lettura che fa di Schleiermacher si riesce anche ad ottenere un discreto medaglione della sua visione del mondo. Su questo non ci possiamo fermare, invece devo ricordare, prima di chiudere, l'altro riferimento dopo Del Bo, dopo la Dacadia, assolutamente significativo, anzi direi il primo e non soltanto per ragioni cronologiche, e cioè la traduzione della monografia di Paulsen. Obiezioni, lei si sta occupando di storiografia italiana, sì, io mi sto occupando di storiografia italiana, però Paulsen insieme, giusto appunto, Del Bo perché era francese e si poteva leggere, e Paulsen perché fu tradotto in italiano prestissimo, sono fonte di lavoro, materiale di lavoro per tutti questi personaggi. Non ce l'hai con me, no? Dunque, molto consistente quindi l'influenza di quest'opera assai presta tradotta in Italia. Tesi di fondo, idealismo, fra virgolette, kantiano, formato di tanti tronconi, principalmente tre, uno dei quali è l'idealismo metafisico, e questa anche per l'Italia fu, diciamo così, l'occasione dell'introduzione della metafisica in Kant, del tema della metafisica in Kant. Forte presenza di Platone nel suo pensiero, e anche questo insieme al Cantals Platonica di Wundt, è un altro dei riferimenti, Max Wundt, un altro dei riferimenti. Volevo aggiungere che, ecco, non potendo parlare di Paulsen, ho pensato come posso sintetizzare. Allora, per sintetizzare Paulsen riporto una cattiveria di Mariano Campo. Mariano Campo, nello schizzo storico sulla esegesi e critica kantiana, si era occupato di un altro volume di Paulsen, di un volume precedente a quello di cui stiamo parlando, dedicato allo sviluppo della dottrina della conoscenza kantiana, e poi aveva parlato di questa svolta di Paulsen e, come epigrafe, scriveva: in Kant, sotto l'agnostico, con il libro del quale stiamo trattando qui, veniva scoperto il platonico. Punto. Da ora in poi, anche per Paulsen, è un'altra storia, e Campo l'aveva rilevata con acume, con il suo acume, insomma. Per Paulsen il carattere della filosofia di Kant è positivo, positivo il carattere della stessa critica della ragion pura. Ecco, prima abbiamo visto religione, poi abbiamo visto critica della ragion pratica, adesso l'interesse si focalizza sulla critica della ragion pura. Kant vuole costruire, non soltanto distruggere, nella stessa critica della ragion pura, non soltanto non vuole demolire il mondo sensibile, ma vuole consolidare definitivamente, questa è una citazione, la nostra fede in esso. Ruolo centrale della dialettica trascendentale, naturalmente, della critica della ragione, ed in particolare stamattina se ne parlava, anche se per altro verso, in particolare alla dottrina del metodo della critica della ragion pura. Se per un certo periodo non si è letto la dottrina del metodo, si è letta la critica della ragion pura fino alla dottrina del metodo esclusa, ecco che adesso la critica della ragion pura si legge quasi partendo dalla dottrina del metodo. Naturalmente non è privo di rilievo retrodatare il ruolo della metafisica da parte di Paulsen, la sua capacità di dimostrare che le ricerche, lungi dall'essere pericolose, sono, cito, utili e necessarie alla morale e alla religione. Significativo infine da parte di Paulsen l'accettazione dell'appartenenza dell'uomo come essere ragionevole, dell'appartenenza dell'uomo come essere ragionevole al mondo intelligibile. Anche qui niente di nuovo, però è ovvio che rendere più o meno stretto questo legame, far coincidere l'uomo dotato di ragione con il mondo a cui è destinato, oppure viceversa, pur mantenendo in piedi il rapporto fra uomo e mondo a cui è destinato, segnalare anche il distacco fra le due cose, evidentemente non è indifferente ai fini di una interpretazione complessiva. A parere di Paulsen, in Kant, come già in Platone e in Leibniz, nel mondo morale l'uomo, appunto in quanto capace di attività pratica, è già membro del mondo intelligibile. Pietro Chiodi, ne accennavo poco fa, o La Manna, per motivi diversi e su versanti diversi, insisteranno su questa finitezza che contraddistingue l'essere umano per quanto ragionevole. Dicevo poco fa, la relazione si apre più o meno a questo punto, cioè adesso si parte con Martinetti e Carabellese e Barrier, e si tenterà di enucleare dalla loro filosofia complessiva e dai loro grossi tomi quelle parti più specificatamente si riferiscono alla religione, avvertendo che non c'è soltanto il filone idealistico idealistico critico, non c'è soltanto la metafisica critica di questi personaggi, ma c'è poi invece anche tutta un'altra serie di autori italiani che si sono confrontati in modo molto più critico e anche molto più libero, molto meno legato con Kant. Grazie.